Bene. Allora, buongiorno a tutti. Ma ieri siete riusciti ad entrare con quel buco che la strada era chiusa? Cosa avete fatto? A piedi. Siete entrati nel... A piedi, sì. Sì, ma prima c'era un vigile che si è messo davanti e impediva di passare. Mi ha detto di fare il giro da economia. Io ho provato a fare il giro e mi sono trovato per 3 volte sullo stesso punto. Era una cosa grottesca. Oggi ho detto, se c'è io investo in bici. Ho preso questa decisione. Investo in bici. Dunque, e stavamo dicendo, o nella prossima settimana, o al massimo dopo, la successiva, avrete il programma di esame. Penso che la cosa vi interessa. Vi interessa? Comunque, come sempre, sarà, vi posso annunciare, naturalmente la lettura del libro di Madame Bovary, lo studio, non la lettura, lo studio di Madame Bovary, in francese, esclusivamente si richiedono, poi se uno porta di più, naturalmente sono ben contento, le parti che vengono commentate. Poi sono 2 libri, quindi questo più 2 libri. Per coloro che non seguono c'è un terzo libro in più di 2715 pagine, e quindi fa passare la voglia di non seguire. Allora, noi stavamo vedendo questa cosa dei comizi agricoli, che probabilmente però non vi ho ancora detto nella sua sostanza. Di che si tratta? È una festa di paese, una festa di paese che serve al governo, alla politica, al governo, a Monti, insomma, i Monti di turno, per mantenere un rapporto con la campagna, va bene? Con la campagna. Per dare l'idea alla campagna che il governo sia dietro, che stia dietro, che solleciti misure, riforme, eccetera, eccetera, da una parte, dall'altra parte serve a quelli che stanno in campagna, cioè lì intorno a Yonville, possono vendere le loro vacche, pecore e tutto quanto, eccetera. Secondo punto. E terzo, è un'occasione naturalmente di incontro dei paesani con i loro governanti, con il sindaco, con le persone che gli stanno intorno. Quarto, last but not least, è un'occasione di incontro di queste persone che abitano in questo posto fra di loro, e quindi gli incontri, e fra gli incontri c'è un incontro che a noi interessa particolarmente, che è quello di un signorotto di campagna 34enne, di cui vi ho già parlato, e che si chiama Rodolphe Boulanger, che è una persona rozza, un cafone sostanzialmente, ma che si dà anche naturalmente di essere molto, come diremmo noi, ripulito, ricordate quegli stivaletti che però pestavano lo sterco del cavallo, e costui è un donaiolo, che è Emma Bovary, è una omaiola, per così dire, ecco, il termine lo poniamo. Emma Bovary non è affatto domaiola, qui è il punto. È una signora delusa del suo matrimonio. Ma avete visto come ha resistito alle avance del giovane di notaio, Leo? No? A punto tale che Leo a un certo punto se n'è andata via, poi lei si è morsa le mani. E c'è il vecchio detto che tutti conoscete: ogni lasciata è persa, ecco, che posso dire che ha una giustezza sconvolgente, sconvolgente. Ma quando una persona ha deciso di mantenere la barra del timone dritta nella sua famiglia, e con tutti gli sforzi, ho conosciuto nella vita un numero praticamente sterminato, di virtuali Bovary. Ecco, c'era una signora che era un'amica di una ragazza che ha avuto con le mie mia allieva, allora poi mia ragazza, la quale quando avvertì a Salerno, quando avvertì quattro figli che un tizio poteva, il marito era un prefetto, un personaggio importante che poteva darle attenzione, chiese al marito un trasferimento a Roma, da Salerno a Roma, pur di non incorrere in tentazione. Ma come Flaubert racconta con assoluta verosimiglianza psicologica, quando uno poi fa un sacrificio, si macera dentro e gli altri pagano. Ne avrete avuto esperienza voi nella vostra vita o ne avrete esperienza. Chiunque fa un sacrificio per una miserabile e umana, troppo umana, direbbe Nietzsche, legge dei compensi, lo fa pagare questo sacrificio a chi gli sta vicino. Le mogli fedeli fanno pagare con il loro cattivo umore, con la loro aggravitudine, la vita al marito. E se il marito osa dire qualcosa, perché sorride, una volta tanto sorride, se il marito dice qualcosa, la moglie gli dice: ma tu che ti lamenti? Io ti sono stata fedele in tutto. E a questo riguardo mi preme consigliarvi un libro fondamentale della letteratura mondiale. Ricordatevi cosa penso della letteratura italiana contemporanea. Lo sapete che è molto meglio, quando avete una tentazione di leggere un libro, andare al distributore di benzina, star fermo lì un'ora sotto la pioggia, piuttosto che entrare in libreria a comprare Baricco o altri, adesso non voglio dire. Questo libro si chiama La Princesse de Clèves ed è un libro fondamentale e anche breve, per cui potrei anche chiedervelo all'esame, diciamo così. È la storia di una donna che ha un amore ed è sposata, ma non tradisce il marito, avete capito? Solo che questo le sta qui, guardate dove le sta, qui, e un giorno glielo dice al marito. Gli dice, mentre il marito è tranquillo, è convinto della sua fedeltà, gli dice: io ho amato un altro uomo, però non ti ho mai tradito. E lui come rimane quella letto? Lui dice: ma porca puttana, io non lo sapevo questo, non potevi avvertirmi prima, però non ti ho mai tradito, di che ti lamenti? Di che ti lamenti? Lui dice: ma come che lamenti? Così eccetera, muore, e lei però mantiene di fronte al mondo questa fama di fedeltà. Ma è stata vera fedeltà? Qui è il punto, no? Si chiama La Princesse de Clèves, l'autrice è Madame de Lafayette, è il libro con cui inizia il romanzo francese moderno, scritto nel 1000, pubblicato nel 1678, libro bellissimo, sta registrato, libro bellissimo, vi ringrazierete di averlo consigliato. Qual è lo scopo di Rodolphe Boulanger? È il più immediato possibile, cioè quello di portarsi a letto. Come si fa a portarsi a letto una donna? Questo è il punto, è un problema che dovrebbe riguardarvi in quanto che siete in un'età buona, diciamo così, non è che avete 75 anni, insomma. Bisogna, come vi ho detto più volte, sperando di aver toccato la vostra anima, parlare della sensibilità e parlare di quello che fa Rodolphe, per dire che noi siamo stati destinati l'uno all'altro da sempre. Questa, come ben potete comprendere, è una cazzata spaventosa, ecco. Però fa effetto a una persona poco giù di testa l'idea che ci sia un destino che controlli la tua vita. Noi abbiamo una sorta di fascinazione per il tema del destino, questa è la ragione per cui, naturalmente spero nessuno di voi, insomma, ma ci sono persone che, ahimè, ecco, leggono l'oroscopo, voi lo sapete questo, tremendo. Ecco, quando io avevo un'amica che mi diceva che quando incontro, un'amica bellissima, che mi diceva: quando incontro un uomo che mi chiede di che segno sei, per me è finita. Cosa succede? succederà all'Ariete oggi, al Capricorno, i sì, immondizia mentale, questa è immondizia mentale, però perché noi, è quella che io chiamo la tentazione di Dio, la tentazione di crearci un qualcuno che ci guida la nostra, ci guidi nella nostra vita. E quindi quando incontro un uomo che ti dice, funziona spessissimo, con anime anche sufficientemente intelligenti, noi ci siamo, io mi ricordo perfettamente di avere usato questi 10 espedienti che qui condanno, ma in molte occasioni mi sembra che siamo fatti l'uno per l'altra, e sai, la persona dice che di questo ci azzeccasse, ma sono 10 espedienti, vengono usati alternativamente dagli uomini e dalle donne, ma più dagli uomini effettivamente che dalle donne, insomma. Ma la sostanza di quello che vuole l'uomo, avete capito, gli insegnamenti della nonna sono sempre utili in questo senso, Vediamo se trovate, dopo il comizio agricolo, girando la pagina, dunque trovate, est-ce que cette conjuration du monde ne vous révolte pas? Siamo di Catania, 2.14. Est-ce que cette conjuration du monde ne vous révolte pas? Questo è il capitoletto 31. Il 30 si intitola, come si intitola questo? I comizi agricoli, solo che il 30. Cioè, quanto è rimasto? 29. Solo che uno è il numero 90, l'altro è 2, questo è il 31. Questo è 31, i comizi agricoli 3. Comizi agricoli 3. Diciamo che l'unica sottile sfasatura, se vogliamo trovare un difetto a Flobi Flobi, è che Boulanger parla troppo bene per essere un signorotto così volgare. Però, insomma, sono licenze poetiche. Sono licenze poetiche nel senso che poi queste frasi, in realtà, pur dette, sono frasi sceme, come sentirete fra un momento, e dice Rodolphe a Emma, forse c'è una congiura del mondo, c'è questa congiura che fa il mondo, forse non mi rivolta, di cosa sta parlando? Sta parlando del fatto che tutto il mondo ha una morale per reprimere i nostri istinti. Ora voi sapete che il vostro problema, ma anche il mio, cioè di tutto quello di tutti gli esseri umani, è che abbiamo degli istinti. Avete capito questa parola? Però questi istinti dobbiamo controllarli, reprimerli, perché se questi istinti li potessimo sfogare così come vogliamo, e ad Adriana per esempio venisse la voglia di far pipì in mezzo al cortile, ma capite che sarebbe assolutamente indecente, no? Immaginiamo che tutti cedessimo a questo istinto, allora quello diventerebbe un pisciatoio, vi rendete conto? Se uno gli piace un uomo e gli salta addosso, non ha senso, e continua, no? Però che cosa vuole dentro di sé Marco? Vorrebbe liberarsi ai suoi istinti. E allora, naturalmente, cosa cerca di fare Rodolfo? Gli dice, fatelo, c'è una congiura del mondo contro di noi, c'è un solo sentimento che il mondo non condanni, gli istinti più nobili. Le simpatie più pure sono perseguitate, calunniate e si trovano infine due povere anime. Tutto, e se si incontrano infine due povere anime, tutto è organizzato perché non possano congiungersi. E tuttavia proveranno e batteranno le ali e si chiameranno e non importa, presto o tardi, fra 6 mesi o 10 anni, si riuniranno, si ameranno, perché la fatalità lo esige e sono nate l'una per l'altra. Diciamo la verità, io sono convinto che anche voi avete detto qualche cosa del genere nelle vostre contubernalità. poggiate sui ginocchi, e così, alzando il viso verso Emma, la guardava da vicino fissamente, e lei distingueva nei suoi occhi dei piccoli raggi d'oro che si irradiavano tutto intorno alle sue pupille nere, e sentiva perfino il profumo della pomata che aveva sui capelli. Allora una mollezza la prese e si ricordò il visconte che l'aveva fatta danzare alla Vaubyessard e la cui barba esalava come quei capelli, quell'odore di vaniglia e di limone, ma finalmente socchiuse le palpebre per respirarla meglio. Ma in quel gesto che fece per alzarsi dalla seggiola, scorse lontano in fondo all'orizzonte la vecchia diligenza dell'Hirondelle che scendeva lentamente sulla costa di Leu, trascinando, lasciando dietro a sé un lungo pennacchio di polvere. Era in quella carrozza che Leon così spesso era tornato da lei, e per quella strada se n'era andato per sempre. Ella credette di vederlo di fronte alla sua finestra, poi tutto si confuse, delle nuvole passarono e le sembrò che ballasse ancora il valzer sotto la luce dei lampadari al braccio del visconte, e Leone fosse non lontano, stesse per arrivare. Il grande tema dell'amore, come tutti sapete, è che quando uno ama qualcuno vuole unirsi a quel qualcuno. Noi non vogliamo unirci a un qualcuno se non l'amiamo. Ieri abbiamo fatto un discorso sulla distanza necessaria, no? Ecco, per cui per esempio, prendendo voi due, potete stare vicini, ma se a un certo punto Gioia esigesse, lei si chiama? Jasmine. Esigesse di stare vicino alla sua guancia per tutta la lezione, lei sarebbe seccata, dicendo: ma che vuoi, insomma, ma basta, ma piantala un po', è così, no? E sarebbe reciproco, evidentemente, il fatto. Ma quando uno ama qualcuno può stare vicino. Quindi l'amore, sto dicendo quello che può sembrare un topos, ma non lo è, vuole far sì che le due, come una calamita, i due estremi vogliano unirsi. L'odio è l'opposto. Provate a mettere gli stessi polo positivi in una calamita e si respingono. Ma la cultura, qui è il nodo del nostro discorso, ha ostacolato tradizionalmente l'unione degli amanti, e la letteratura e l'arte di tutti i tempi ha raccontato questo ostacolo che gli amanti trovano, che è dovuto a vari fatti. Il fatto che uno è sposato, per esempio, l'altro pure, oppure la distanza, ci sono uno è fidanzato, insomma. Le più grandi opere della letteratura del mondo sono dedicate a questo tema, no? Le persone che si amano non possono stare insieme. Un esempio fra tutti che conoscete, una commedia di quel genio, che però non è certamente la cosa migliore del genio di cui sto parlando, è Romeo e Giulietta, evidentemente. Voi sapete benissimo, perché siete ragazzi che siete con i piedi per terra in questo mondo, che quando le due persone si incontrano, poi non è più come prima. Cioè la bellezza è l'essere separato e desiderarsi. Quando le persone sono insieme, dopo un po' di tempo, avete, per chi è che ha presente Romeo e Giulietta? Di voi alzi la mano. L'avete presente più o meno tutti, anche lei l'ha presente, eh? Ecco. Allora, vi ricordate quando Romeo va a Mantova? Avevo già fatto questo discorsetto. Quando Romeo scappa a Mantova, no? Quindi sta lontano per sempre da Verona e da Giulietta. Se venisse un messaggero e dicesse a Romeo: Romeo, le vostre famiglie hanno fatto pace. Come fatto pace? Io sono andato a Mantova. Devi tornare indietro. Puoi sposare Giulietta forever. Tutto il giorno. e ero, ma l'ho mai fatta poi questo discorso? E come io dicevo, che bello, fantastico, anche Giulietta. Ma per quanto tempo dovremmo stare insieme? Vediamo che Romeo fosse un po' causidico e gli venisse in mente di fare questa cosa. Per quanto tempo? Siete giovanissimi, 50, 70, 80 anni, 80 anni, guarda. 80 anni. Sì, sì, da domani, 80 anni. Come sarebbe l'amore di Romeo e Giulietta, al di là delle battute? Durerebbe 80 anni? Ma non esiste nessun amore, non che duri 80 anni, ma che duri lungamente. Perché è la separazione, eh? C'è un vecchio libro, vecchissimo, a 80 anni, giusto appunto, ed è sballato per molti aspetti. Avete capito? Superato, sballato, ma è fantastico. Per certe cose che potete cavarne fuori, per cui ve lo consiglio. È un libro del 1930, credo che sia. Forse alcuni lo conosceranno. E alcuni superciliosi vi diranno che è un libro sorpassato, io non è sorpassato, che è un libro che racconta delle cose imprecise, e certamente lo è, ma è anche un libro che apre la mente. Si intitola L'amore e l'Occidente di Denis de Rougemont. Denis de Rougemont. L'amore e l'Occidente. L'amore e l'Occidente. E racconta che cosa è l'amore, no? Voi sapete per esempio che nel mondo orientale l'amore è vissuto in modo completamente diverso da noi. Il concetto di passione che noi abbiamo, io ho avuto la fortuna di conoscere il grande sommo regista Michelangelo Antonioni, che raccontava, che mi raccontava che era stato a vedere, a portare i suoi film in Cina, mettete questo 35 anni fa, e finché parlavano della incomunicabilità amorosa, i cinesi lo guardavano e non capivano di cosa stesse parlando, perché il problema dell'amore non si pone in questi termini come si pone invece in Occidente, per cui la dimensione occidentale, uno si sposa e basta, il marito, la moglie serve per pratiche, per i figli, per la famiglia, eccetera, per cui la dimensione occidentale dell'amore, ecco perché vi parlo di questo libro, faccio bene a parlare, è fondamentale per capire il problema di Madame Bovary o il problema di Anna Karenina, che è più o meno lo stesso. Quindi, quando si sta separati, ci si vuole unire. Non è detto poi che unendosi le cose siano felici, eccetera, eccetera. Quindi, in questa pagina c'è una parola chiave, la parola riunirsi. E cerchiamo di capire cosa vuol dire. Quando lui racconta quella balla e dice le anime si riuniranno, le nostre anime si riuniranno, di che cosa in realtà sta parlando il povero Rodolfo nella sua imbecillità senza sapere? E sta parlando del tema di Dio, del tema di Dio, perché il grande mito della religione qual è? Per un non credente, per chi guarda in modo laico, è il mito della religione. Mitos vuol dire parola, favola, invenzione, è che noi possiamo riunirci all'oggetto d'amore, riunirci a Dio. Chiaro il discorso, no? Un giorno ci riuniremo a Dio. E questo dappertutto, cioè l'Islam, mutatis mutandis, dice la stessa cosa. Sono le religioni orientali che non gliene frega assolutamente niente del concetto di riunirsi a Dio. Avete capito? Naturalmente il tema è immenso, ma voglio dire, essendo un tema centrale della cultura mondiale questo, guardate la differenza fra religioni del mondo occidentale, cristianesimo in testa, ebraismo, eccetera, e religioni del mondo orientale. Quindi la balla che racconta lui è questa, che si potranno riunire e noi in realtà non vogliamo solo riunirci a Dio nel senso che noi vogliamo riunirci con le nostre origini, tutto quello che tocca il nostro passato, le nostre origini, può arrivare a commuoverci. Quando sentiamo una canzonetta che abbiamo sentito anni fa, noi ci commuoviamo, ma perché la canzonetta è una cosa di una scioccaggine incredibile. Ma che cosa ci ricorda? Ci ricorda quando eravamo piccoli. l'espressione quando eravamo piccoli in qualche modo ci affascina, vogliamo vedere le fotografie di quando eravamo piccoli, tutti le avranno viste le fotografie di quando erano piccoli, tutti hanno questo desiderio di stare con le origini, a contatto della mamma, a contatto dell'origine. Naturalmente nella cultura, nel processo culturale ci si svincola da tutto questo, no? Ma il desiderio rimane profondo. Il genio che è Flaubert racconta come avviene questo tentativo di seduzione. A un certo momento lei sente la brillantina sui capelli di lui. Adesso non si usa più, ma negli anni Ottanta era tornata di moda la brillantina. Sapete cos'è la brillantina? La brillantina era una cosa che usavano gli uomini per tenere i capelli a posto. Era una cosa schifosa, unta. Io mi ricordo che una cosa? Brillucicava. Io mi ricordo aver fatto delle lotte all'arma bianca con il mio barbiere che voleva mettermi negli anni Ottanta la brillantina. Qualche volta vinceva lui, veniva fuori questa ciofeca incredibile sui capelli che lui diceva, ah, così poi... Poi lui era convinto che l'aspetto dei capelli fosse determinante dal punto di vista sessuale, ah, così poi scopri molto, non posso più legare la brillantina a questo, ma scherziamo, insomma, no? Poi l'avevo vinta io la battaglia. Comunque la brillantina colpisce, lui dice, ma com'è possibile che Emma Bovary... ma Emma Bovary è una scema, è una che ha delle sensazioni immediate, quindi la brillantina sui capelli la incanta. E poi, come tutte le donne, secondo la misoginista psicologia di Manottanto, nell'atto dell'amore le donne vengono meno, insomma, gli uomini non vengono affatto meno. Gli uomini è invece un arrabbiarsi costante fino a che boom. Le donne no, le donne si sciolgono, vengono meno, vogliono star vicini. Questo abbiamo una narrazione bellissima, precisa, fra poco. E quindi però una donna molta più consapevolezza culturale del momento dell'amore di quanto ce l'abbia. Cioè un uomo se vuole andare alla meta guarda solo quella meta e basta, la donna invece ricorda le onde. Non esiste un uomo che trovandosi di fronte a una che si chiama Marie, che è lì on the spoon, come dicono gli inglesi, capite? Sul cucchiaio, pensi a un'altra, non esiste. Non ci sono uomini di questo genere, non è assolutamente possibile. Pensa a Marie che è lì, no? Ma lei no, lei invece pensa... Voltate la pagina, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Siete arrivati al capitolo 9, superatelo. Dal capitolo 9 è 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Il capoverso è... j'ai tort, disait-elle. Je suis folle de vous entendre. Ci siamo? 230? Beh. Allora, sentite quello che è successo. Per consumare, per così dire, ha capito cosa vuol dire consumare? Bisogna avere però un posto, no? Io avevo un posto, non avevo dubbio. Cioè alla disperata uno va sul paracarro, ma io avevo un posto. È un'occasione. E che cosa pensa Rodolfo? Questa che si lamenta della salute, che è così fragilina, così eccetera. E se proponessi al marito di portarla a cavallo? Tra l'altro, notate il doppio senso, finalmente. Va dal marito e gli dice: credo che vostra moglie stia bene a cavallo. E il marito dice: ma certo, deve andare a cavallo di più, anzi, deve andare a cavallo. Dice: ah, ma io vincerei, ritraendosi. E dice: io non ho un costume da cavallo, ma lo compriamo senz'altro, la salute prima di ogni altra cosa. Comunque preparano questa passeggiata a cavallo. Le lei è tremebonda, lui è un cavaliere, cavallerizzo naturalmente abilissimo, lei va su questo cavallo, un cavallo si suppone uomo, una donna, una povera femminella, così eccetera, vanno, attraversano un bosco e a un certo momento lui attacca i cavalli e proseguono a piedi. Mi seguite bene? Lei comincia a dire, dove andiamo? Non vi preoccupate, dice lui, stiamo seguendo il destino. Ma no, ma io voglio tornare ai cavalli, dice, no, no, adesso no, non è il caso. A un certo punto lui finge di rassegnarsi e tornare ai cavalli, ma insomma, lui a questo punto gioca il tutto per tutto e dice, ma io vi amo follemente, io senza di voi non posso vivere. Non posso vivere. Lui è bello, teniamoci bene, cioè anche degli attun, delle carte da giocare, non posso vivere assolutamente, per cui non posso non abbracciarvi. E continua a raccontargli le sue cose e quel j'adore, ella diceva ho torto, sono pazza ad ascoltarmi, perché questa scena è capitale. È il capitoletto 32 e lo intitoliamo La Baisade. Sapete cosa vuol dire la Baisade? Non lo pronunciamo. Baisade, la Baisade. È la Baisade 1. Allora, la Baisade 1, no, non nel senso, ci sono due parti di questa Baisade. Perché? Perché Emma è. Ascoltate bene questa mirabile prosa. Oh Rudolf, fece lentamente la giovane donna chinandosi sulla sua spalla. La stoffa del suo vestito aderiva al velluto della giacca di lui. Ella rovesciò il collo bianco all'indietro che si gonfiava ad un sospiro e, venendo meno, tutta piangendo, con un lungo fremito e nascondendosi il viso, si abbandonò. Le ombre della sera scendevano. Il sole orizzontale, passando fra i rami, la bagnava. Qua e là, intorno a lei, nelle foglie o per terra, macchie luminose tremolavano, come se dei colibrì volando avessero sparpagliato le loro piume. Il silenzio era dappertutto. Qualcosa di dolce sembrava uscire dagli alberi. Ella sentiva il suo cuore, i cui battiti ricominciavano e il sangue circolare nella sua carne come un fiume di latte. Allora sentì lontano, al di là del bosco, sulle altre colline, un grido vago e prolungato, una voce strascinata, e lei l'ascoltava silenziosamente, mescolarsi come una musica alle ultime vibrazioni dei suoi nervi scossi. Rodolfo, col sigaro fra i denti, aggiustava col temperino una delle due briglie rotte. Tornarono a Yonville per la stessa strada e rividero sul fango le tracce dei cavalli, una a fianco all'altra, e gli stessi arbusti, gli stessi ciottoli nell'erba. Niente intorno a loro era cambiato, e tuttavia per lei qualcosa era successo di più importante che se le montagne si fossero spostate. Rodolfo di tanto in tanto si chinava e le prendeva la mano per baciarla. Questa è la scena, è una delle scene naturalmente che turbarono la censura ai tempi della pubblicazione del libro, ma volevo farvi notare la sapienza assoluta di questa scena. Il vestito, guardate quel sacrocet, aderiva al velluto della giacca, la stoffa aderiva. Voi vi ricordate che quando ballava con il visconte, anche lì c'era un incrocio accorciarsi di gambe e di vestiti. Ricordate questo dettaglio? Quindi è già come una preparazione della scena. E poi lei rovescia il collo, lo rovescia con una qualunque donna naturalmente nel momento del piacere, ma anche per non voler vedere quello che capita. E infatti vedete che questo rovesciare il collo, che è legato sia al piacere erotico evidentemente, sia al non voler vedere, quindi butto la testa all'indietro, è unito al fatto che con un lungo fremito, piangendo perché è un momento di emozione altissima, si nasconde il viso. Guardate quel punto a capo, perché tra il punto a capo e l'esombro du soir avviene evidentemente il coito, no? Quindi era nel pomeriggio e quindi ci dà l'idea che sia passato un certo periodo di tempo, e queste ombre della sera che scendono danno esattamente l'idea del tempo che è passato. Le ombre scendevano e c'è una specie di contemplazione da parte dello scrittore della natura tutta intorno, piena di silenzio, finché arriva una frase interessantissima: qualcosa di dolce sembrava uscire dagli alberi. È chiaro che questa è la percezione di Emma, no? Non certamente di Rodolfo. Qualcosa di dolce sembrava uscire dagli alberi. Una questione su cui io a suo tempo mi ero impegnato con la traduttrice di Flaubert, la famosa traduttrice, famosa scrittrice, Natalia Ginzburg. Chi di voi conosce il nome della Ginzburg? Ecco, che aveva tradotto Madame Bovary, e gli avevo detto che secondo me c'era un errore, perché lei aveva tradotto Quelque chose de doux, era un'amica che frequentavamo a quel tempo, come una dolcezza. E io gli avevo detto: signora, non mi sembra che sia così, perché se Flaubert, preciso come era, avesse voluto dire una dolcezza, avrebbe messo il douceur. Il fatto che abbia messo quelque chose de è perché la dolcezza deve essere presentata al lettore in una sua indeterminatezza, quindi non è esattamente una dolcezza, ma è qualcosa di dolce. Lei riconobbe che aveva ragione, ha detto che è inciso. Ma fate caso a questo quelque chose, che non appare che raramente in Flaubert, perché appunto usa delle parole molto precise, perché fra pochissimo noi troveremo due altri quelque chose a ribadire il fatto che in questa situazione di piacere del corpo, e del corpo, non solo del corpo, che del corpo, di piacere complessivo, lei non riesce a dire delle cose determinate. Madame Bovary non riesce a pensare a cose determinate, quindi qualcosa di dolce. Di fronte a questo fiume di latte, e credo che avere nel sangue un fiume di latte, io non l'ho mai avuto e penso neanche voi, ma è una sensazione, è un'immagine meravigliosa, no? Cioè come il latte, la fonte stessa della vita che ci scorre nelle vene, eh? Di fronte a questo c'è la fulminante battuta su Rodolfo con il sigaro fra i denti e il temperino che, cioè, il temperino tutti gli uomini di campagna, come dice a un certo punto Emma, hanno sempre un coltello in mano, un temperino, no? Può servire per ogni bisogno, aggiusta le briglie. Quindi di fronte a questo sciogliersi di lei c'è la freddezza cinica di lui che con il temperino sta aggiustando le briglie, senza un'emozione, senza nulla. Per lui è stato una faccenda come un'altra. Ma direi il colpo di genio, oltre che il temperino con cui aggiusta le briglie, sta in quel sigaro in bocca che denota il suo completo essere estraneo dalla situazione. Tornarono. Quando uno ha commesso qualcosa di grave, e certamente per una donna sposata, questa è la cosa più grave che poteva succedere, c'è una strana sensazione di rapporto con quello che avevamo intorno. Prima che succedesse quel qualcosa di grave, noi vedevamo un albero, un tavolo, una sedia. Quelli erano ancora testimoni della nostra innocenza. Adesso li rivediamo e questi non sono più testimoni della nostra innocenza. C'è un libro di Dickens poco noto, Dickens, quello di David Copperfield per intenderci, che si chiama Martin Chuzzlewit, in cui si parla di uno che commette un omicidio e va in un bosco, e prima di commettere l'omicidio, che avviene nel bosco, guarda tutta la stanza che ha intorno, che è appunto testimone del fatto che non è un assassino, ma quando torna vede che la stanza che ha tutti intorno a sé i mobili sono testimoni invece del fatto che è un assassino. Per come era concepito secondo la morale del tempo, ma diciamo che da questo punto di vista un tradimento coniugale mantiene tutt'oggi una consistenza molto superiore a quello che il buon senso ironico, scherzoso, goliardico voglia dire. Un tradimento è un tradimento. Diciamo, un tradimento è una cosa grave senza tempo, in fondo. E quando uno ha tradito per la prima volta il proprio compagno, la propria compagna, la reazione è stranissima. È di forza, di muscolarità enorme che uno sente di avere dentro, perché è riuscito a superare un grande ostacolo, quello rappresentato dalla morale cui finora si era tenuto, dai rapporti di fedeltà cui si era, che aveva finora rispettato. Quindi è una sensazione strana di ebbrezza e di cupezza. In questo modo possiamo capire, Madame Bovary che viene a dire, per lei era stato tutto questo come se fossero state spostate delle montagne. Prendiamoci qui.